E Radio Onda Rossa, come ogni mercoledì sera, inizia prove tecniche di trasmissione. Un appuntamento esistente ormai dal lontano 1992 e che andrà in onda, come al solito, fino alle 22:30. Dopo del sottoscritto ci sarà 25 o'clock fino alla mezzanotte e oltre. Contatto telefonico 0649 1750, sito internet www.ondarosse.info, anche per ascoltarci attraverso lo streaming. Per le comunicazioni mediante posta elettronica ondarossa@ondarossa.info. Sul sito domani verrà pubblicata la playlist e il podcast di questa trasmissione, come sarà fatto anche sulla pagina di Facebook Prova Tecniche di Trasmissione /Disorder. Per quanto riguarda la vita di questa radio, fondamentale la sottoscrizione, oltre le iniziative nei centri sociali. E quindi il 61 80 40 01, il nostro storico conto corrente postale intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via Revolci 56 00185, Roma. Nel sito comunque ci sono le possibilità più tecnologiche per sottoscrivere. Si clicca su sostieni e compare il tutto. Andiamo a salutare Alessandra qui da Roma. Da Roma anche Like Awake, da Napoli Raffaele Pezzella, Enrico Cerrato da Asti. Antonella dalla Sicilia, anche ci abbiamo anche il buon FM, valente musicista qui di Roma. E quindi andiamo ad iniziare scandagliando, setacciando, analizzando ancora una volta questo Northern Lights, The Scandinavian Experimental System Survey, questo lungo sviluppato compendio di progetti che vengono dal Nord Europa, dalla Scandinavia per la precisione. Un album che predilige le atmosfere space e dark ambient, ma di tanto in tanto ci sono anche afflati più sperimentali. Questa sera dalla Danimarca ci ascoltiamo Jacob Løbby con questa traccia dal nome RBG. Jacob Levy, da questo Northern Lights, che esce naturalmente per Nespresso Sounds, che oltre a essere un gruppo Facebook è anche un portale e un'etichetta di musica, per l'appunto gestita da buon Raffaele Pezzella. Dal medesimo compendio, dunque, ci spostiamo un po' più a nord, dalla Danimarca andiamo in Norvegia. Questo è un duo dal nome Bjerge Iversen, questa è K3 Minut Fra, lingua sconosciutissima, non credo sia norvegese, devo dire. Ci andiamo ad ascoltare anche questo breve estratto da Northern Lights. Un saluto a Riccardo Martucci da Taranto. Da un po' che non lo sentivamo, lo abbracciamo. In realtà era soltanto un musicista, qui erroneamente l'ho descritto come un duo, dovrebbe essere un unico musicista, Jan Iversen di Stavanger, Norvegia. Collaborazioni importanti, tra cui il nostro Maurizio Bianchi. Ringrazio ovviamente Raffaele Pezzella che ci rende ancora più chiara la, diciamo, il più chiaro il background di ogni singolo musicista che compone questa compilation, che d'altronde si avvale di musicisti per lo più sconosciuti, almeno alle mie orecchie, e che buon Pezzella ha fatto risalire in superficie per tutti noi. Un lavoro incessabile di vero e proprio studioso, e lo ringraziamo di nuovo. Northern Lights, dunque, del 2016. Loro sono Pact Infernal, sconosciuto duo proveniente dal Belgio, ne sappiamo poco, sappiamo però che hanno fatto questo lavoro dal nome Infernality del 2017, uno dei migliori lavori della scorsa stagione, tra ambient e suggestioni etniche, a tratti anche arricchito da una certa tribalità. E questa sera già è partita questa Death and Rebirth, seguita da Talismans. Cambiamento in corsa, dunque l'ottava traccia l'abbiamo ascoltata, mi sono ricordato che l'abbiamo ascoltata la scorsa settimana, per cui ci ascoltiamo la nona, questa che è già partita dal nome Symbology, sempre per Pact Infernal. Thank you. Interessante dunque questa novità, questo progetto proveniente dal Belgio dal nome Pact Infernal. Questo è il secondo lavoro, se consideriamo The Descent, che era un album che racchiudeva due EP usciti nel 2015, che quindi furono messi su supporto digitale in questo The Descent che ascolteremo in futuro. Infernality dunque, album consigliatissimo, che esce per questa label tedesca, la Oro, una label di Berlino che credo racchiuda in sé progetti assai simili a Pact Infernal, quindi ritualismo, tribalità, diciamo esoterismo musicale, componenti che vedo suscitano l'interesse, e non mi sorprendo, di Raffaele Pezzella. Torniamo adesso in Scandinavia, ce ne andiamo esattamente in Islanda con un artista che, ammetto, su di me esercita un fascino musicale non indifferente. Segnalavano problemi di streaming, ma non credo che ne ci siano, anche perché vedo parecchie persone connesse. Intanto salutiamo anche Urnus Aylin, sempre da Asti, anche loro, al pari di Enrico Cerrato. Dicevo dunque Björk, un artista che non vorrei considerare uno scheletro nell'armadio per il sottoscritto, ma devo ammettere che ha fatto all'inizio carriera degli album interessanti, anche se lì erano magari in una dimensione più pop rispetto poi alle scelte più coraggiose che ha intrapreso da Medulla in poi. Album forse meno intensi, ma decisamente dal piglio sperimentale. E questa caratteristica la conferma anche nell'ultimo album dal nome Utopia. Al solito con One Little Indian come etichetta, l'undicesimo lavoro per l'esattezza. E da questa utopia di Björk ci ascoltiamo Body Memory. Struggle, claustrophobic. Growing. E abbiamo scelto la traccia più lunga da questa Utopia, ultimo lavoro di Björk, ovviamente islandese come tutti sapranno, una traccia che portava il nome di Body Memory. Notevole, devo dire, l'uso della voce e anche le parti vocali dei cori in sottofondo. Una struttura, diciamo, IDM ambient che caratterizza anche molti lavori di Björk. Album complesso, e credo che Björk ormai da molti anni si può permettere di sperimentare dopo aver, come dire, accumulato tanti denari, e soprattutto con i quattro primi lavori, belli anche quelli, ma diciamo più accessibili rispetto a Utopia e ad altri. Salutiamo anche Alessandro Bellotta della Grazia Obliqua in ascolto. Arriviamo qui in Italia. Arriviamo alla conclusione dell'analisi dell'ultimo lavoro dei Camerata Mediolanense di Milano, un progetto storico di area neofolk e neoclassica. Abbiamo impazzato attraverso e nel loro album Le Vergini Folli, album composto da due volumi. Giungiamo al termine anche con le ultime due tracce dal secondo volume. Un altro brano di piano acustico e basta dal nome Notte Ancora, e poi un inedito alla fine dal nome Canzone alla Vergine. Intuirete, ci sono problemi di macchine qui in radio, e quindi da capo ancora Camerata Mediolanense, sperando che tutto vada meglio. Thank you. Un saluto anche al Fulvio Biondo di Solar Lodge, anche lui affezionato di prove tecniche di trasmissione. Ci ha tenuto a lungo compagnia questo Le Vergini Folli della Camerata Mediolanense, progetto milanese. Uno dei migliori album dello scorso 2017, al mio modestissimo giudizio, ovviamente per chi ama questo tipo di suono così etereo. Vorrei menzionare anche gli Ashram, che in quest'anno hanno fatto un ottimo lavoro. Human Divine, ascoltato in questa primavera. Questo album del camerata Mediolanense si concludeva splendidamente con Canzone alla Vergine, anticipata da Notte Ancora. In primo piano il pianoforte di Elena Previdi, ma anche le voci nella traccia conclusiva, solista di Chiara Ronaldo e di Carmen D'Onofrio e Desiree Curapi. Le liriche anche in questo caso di Francesco Petrarca, indimenticato poeta. 21:45, Onda Rossa 87.9, naturalmente in modulazione di frequenza. Una radio che si può prendere anche attraverso un computer usando il www.ondarossa.info, il sito internet. Partì anche questa sera, facciamo una capatina in Ungheria attraverso e con i Chris Fall You e Crashau, insieme in questo album da nome Unitas. Ci ascoltiamo questa sera Mutilated Confession, divisa in una prima e nella seconda parte. La seconda parte si chiama Infected.

questa collaborazione efficacissima tra Crinsfall U e Crashdown, una delle due espressioni più importanti dell'Ungheria industriale neofolk. Dunque sembrerebbe che lo streaming infatti di tanto in tanto abbia qualche problema, ma il vento evidentemente può influire negativamente sul funzionamento dello strumento. Un saluto anche a Gabriele di Buonanno, anche se in ritardo, ma graditissimo ovviamente. E adesso torniamo in Italia, l'abbiamo salutato prima, Enrico Cerrato, lo conosciamo soprattutto grazie a Petrolio, questa sua nuova avventura che abbiamo conosciuto proprio nel 2017, se non sbaglio, con un lavoro di esordio. E Petrolio dà, spero, un'anticipazione di un nuovo lavoro lungo attraverso questo tre tracce dal nome Intramenia Noises for Angela, che in realtà è una colonna sonora di una performance di una ballerina, Angela Teodorowski, una performer, non so se viva alla Spezia da quanto mi sembra di leggere. Comunque Enrico, se è all'ascolto, poi può anche chiarire meglio. Ci andremo ad ascoltare Work numero 1 e numero 2, che ci dà un Petrolio leggermente più elettronico rispetto alle tematiche noise degli esordi. Comunque un lavoro, a mio modesto giudizio, abbastanza interessante, anzi direi parecchio, e quindi ce lo andiamo ad ascoltare. Questo è quello che hanno dichiarato, ma io lo so che sono pazzo.